Però abbiamo sbagliato tutto, Drago. Ma cosa? Ma come cosa? Ma dovevano cambiare il titolo al programma. Fai la seconda stagione, cambi il titolo, no? Ma perché? Ma come ha fatto Matteo Caccia. Lui cambia. Sempre per... con Matteo Caccia. Vabbè, ma lui è un invidiosetto. Ma non è... Ma che invidiosetto? Sei un po' invidiosetto. È prima di noi, è prima di noi. Gli occhi azzurri, la radio importante, sai come. Chi arriva prima? Io lo ascolto perché ascolto il lancio che ci fa, no? Certo, E comunque quindi... Matteo Caccia, lui sì, ha fatto la seconda stagione del programma e ha cambiato titolo, no? Si chiamava Io sono qui. Adesso si chiama Voi siete qui. Allora noi come dovevamo chiamarlo? Ma non so, tipo chiedete asilo. Chiedete asilo. Un po' lunga. Invece sì. Voi siete qui. Anche lungo quello. Poi non si può mica rubare il nome del programma di un altro. Ma dai, viene prima, uno si abitua. Vabbè, dai, passiamo alle notizie serie. Che sì, oggi dai. È il 12 settembre. Oh, e puntuali alle 8:15 le campanelle di tutta Italia hanno decretato l'inizio dell'anno scolastico 2011-2012. Ecco. E quindi noi siamo molto coinvolti nella questione. No, siamo molto. All'asilo, l'asilo è cominciato conto. Una settimana fa. Però cominciano le scuole. Che tristezza che cominciano le scuole. No, ma è sempre bello. Ma no? Com'è bello? Poi a parte che c'è una cosa sulle scuole che cominciano, cioè dovrebbero cominciare dopo. Uno a scuola dovrebbe andarci dopo. Ma dopo in che senso? A 8 anni, a 10 anni, come dicono quelli, no, che pensano dopo, che... Drago, dopo. Non a novembre. Ma no, dopo nel senso più tardi, alle 10 del mattino invece che alle 8:15. Alle 10 del mattino, giusto così per stare 2 ore in più nel letto a poltrire, no, sono le tue teorie. Ma che è così? Riguarda l'ormone che stimola il sonno, la melatonina. Cioè l'ormone che sì, stimola. Sì, perché questo ormone, la melatonina, nei ragazzi giovani si presenta 2 ore più tardi del normale. Un giorno sono la melatonina, esatto, si presenta però così. 2 ore, così in ritardo gli dici, perché il cervello di un ragazzo è dimostrato essere più lucido e sveglio nel primo pomeriggio, capito? Anzi, se si alza alle 7 del mattino, a svegliarsi, tu dici la mattina, che bello, mi sveglio la mattina. Vabbè, è una cosa da fare, da bambini tutti ci siamo. Gli adolescenti vivono come se fossero perennemente in uno stato di jet lag, hai capito? Come? E questo mica lo dico io, lo dicono a Oxford, cioè una ricerca di Oxford. Pensare che a Oxford ci si alza presto, Ma che ne sai tu? Infatti, tirato a indovinare. Se svegliarsi troppo presto potrebbe istupidirvi, almeno nelle... Istupidirvi? Ma non si dice instupidirvi? Credo proprio di no, almeno nelle prime ore di veglia, Attenti però alle vacanze, perché quelle, dati alla mano, istupidiscono sul serio. Quelli lì sono i dati, sì. E quelle la mano. Sì. Ma chi la dice, sta roba stacca? Ma no, lo dice il Daily Telegraph, che io non so assolutamente quali credenziali abbia per mettersi a dire cose del genere, però mi pare che sia un giornale conosciuto, no? Il Daily Telegraph. Forse quello dell'uomo ragno. Non so, sì, forse sì, perché il nome suona bene, in effetti, Daily Telegraph. Vabbè, allora, il Daily Telegraph ha ragionato in modo un po' funky e un po' fuzzy sulle conseguenze che le vacanze possono avere sul nostro e vostro quoziente intellettivo. Cioè, ad esempio, la prenotazione. Sì. Le vacanze di solito cominciano con uno scambio di email con le agenzie, compagnie aeree, hotel, e tu stai lì tutto il tempo ad aspettare che ti rispondano, e il tuo cervello è concentrato lì. Oh. Bene, il professor Glenn Wilson del Gresham College di Londra dice che il bombardamento di posta elettronica, sta sentendo. La spam, fa perdere, no, sì, non la spam, la posta elettronica che aspetti, che arrivi dall'hotel, eccetera. Sì. Sei preoccupato, poi tua moglie ti dice non hai prenotato in tempo, e tutte queste cose. Ti arrivano le mail, ti fanno perdere fino a 10 punti di quoziente intellettivo. Tutte queste situazioni di tensione, più del doppio di quanto si lascia per strada consumando forti quantità di cannabis. Così dice testualmente il professor Wilson. Quindi, se avete una dipendenza da cannabis, licenziate il vostro spacciatore e fingete di prenotare una vacanza, che è uguale, no? L'effetto, cioè dico, no, ma non mi interessa farmi la canna, adesso prenoto una vacanza a Langham anche di Londra, vero, con EasyJet, aspetti le risposte, tutto così, quanto, ma arriva le mail e sei sballato e vado a dormire. E poi c'è il viaggio, scusa, i ritardi dei voli, nuvole di cenere vulcanica, scioperi all'aeroporto, file all'imbarco, attesa per i bagagli, valigie smarrite. In questo caso l'organismo produce il cortisolo, che è l'ormone dello stress, tipo quello del sonno, però dello stress. Quindi altri qui 10 punti, se non 20, di QI che viene a mancare la persona che sta per andare. Quindi siamo già a meno 30 sì. 30 come QI. Poi si arriva alla spiaggia, dove spiaggia c'è disidratazione dei lobi frontali, i bagni di sole fanno dei danni pazzeschi al cervello, si perdono altri 20 punti più o meno. E arriviamo con la spiaggia a meno 50. Sì. Ma sì. Allora, scusa, meglio la montagna. Forse sì. Poi, per finire, l'ultima causa di rincoglionimento da vacanze è la visione della donna da vicino. Perché c'è uno studio del Journal of Consumer Research. Ma guarda che ti fa male. Che dici? Qua delle ricerche. Perché tu diventi, stai dicendo delle cose che non sai neanche bene che cosa stai non dicendo. È vero. Tu leggi delle cosette. Siamo a 50 punti di cui in meno. Capito. Hai capito. Dove vuoi arrivare? Arrivare siamo, anzi, no, siamo a meno 60. Sì, perché 10 punti si perdono guardando le donne. Vedi? Quindi meno 70, meno 60. Ormai siamo così. Quindi concludendo, se sei Umberto Eco, torni dalle vacanze che sei più o meno nella media. Se invece sei uno normale, torni del tutto deficiente. E se invece sei uno come te? E ora, bambini, ricreazione! K, cosa grande fa? Novità quest'anno, questa qui, nuova stagione suono della grande asilo. Novità. Abbiamo solo sbagliato a non intitolarlo Chiedete asilo. Quello sì, quello l'abbiamo già detto. Pazienza. Comunque c'è una nuova idea, un nuovo modo per comunicare con l'asilo. La lavagna aperta, come dice. C'erano i microfoni aperti. Lavagna pulita, come piazza pulita. Lavagna pulita. Voglio una lavagna pulita, così, capisci? Perché ce l'avete con Corrado Formigli? Io non lo so. Il numero che bisogna comporre per arrivare a parlare con noi è 02 46 52 44 95. E se uno chiama quel numero, cosa succede? Risponde una voce, una segreteria telefonica che ha registrato per noi proprio il bambino Alberto. Sei contento? Allora, siamo qui, facciamo una specie di conferenza stampa così per annunciare questa cosa che tu hai lasciato in messaggio. Allora va bene, una specie di evento, ma no, ti piace? No, facciamo, è un'intervista, è una specie di evento, te l'ho detto. Ma non è l'evento, non è questo. No, l'importante è che finalmente ci apriamo al pubblico, perché fino adesso abbiamo avuto soprattutto il bambino Alberto, un grande successo su Facebook, sì, con tutti i tuoi fan per le canzoni che canta, certo, e questo continuerà, ma finalmente possiamo far sentire anche le voci degli ascoltatori, le voci degli ascoltatori. Bambino Alberto, ma ti rendi conto? Potrai sentire tutti i tuoi amici come si chiamano. Ma questi cosa dicono? Cioè, chiamano per lasciare messaggi, cioè questioni logistiche? È una messaggeria? È un'assistenza clienti? È un'assistenza ascoltatori? Perché deve andare a pensare alle cose più complicate, più complesse. Siamo all'asilo, parliamo di essere bambini, se insomma da adulti è una cosa saggia o meno. Insomma, dite la vostra allo 02 46 52 44 95. E dove tu telefoni e c'è, sei tu che dici ciao, voce del bambino Alberto. Alberto. C'è anche Gildo. Sono io che rispondo. Sì, c'è anche quindi Gildo. Quindi questi dicono Gildo no, un attimo. Gildo c'è, ci sarebbe, ci sarà, c'è anche lui. Vabbè, ma adesso nel messaggio c'è. Dai, cerca di invogliare la gente a telefonare. Allora, bambino Alberto. Ragazzi, ascoltatori, dovete aprirvi. Prendere questo telefono, questa segreteria telefonica. Non che dire complimenti, capo e drago, però bambino Alberto che palle. No. Quello no, cosa devono dire? Capo e drago che palle, no, bambino Alberto che bravo. Ma come se non esiste niente, una linea, bambina. Una linea in cui uno si può esprimere, esprimere il suo bambino, il bambinismo, perché adesso si usa di tutto, il bambinismo. Sì, è una specie di malattia. È una malattia, ma una malattia buona, i portatori sani. Quindi voi chiamate e esprimete il bambino che è in voi. Liberi, dovete sentirvi liberi come dei bambini che saltellano e tirate sulla cornetta, chiamate e fate quello che volete. E dite tutto quello che volete. Beh, è un bel promo, Senti, già lì che squilla. Già squillato, chi è? Pronto? Ma che pronto? È caduta la linea. Sì, ma il numero almeno lo sai. Dai, di il numero. Dai, ripetilo, dai. 02, allora. No? Sì? 02? No, 02, dico, è prefisso. Beh, una volta che fai il prefisso puoi trovare il numero esatto, non ci metti mica niente, no? No, non lo sai, quindi. Vabbè, vai, allora, il 4... 4-6... 5-2... 4-4... 9-5... Quindi, riepilogo, 02 46 52 44 95, chiamate a questo numero, non è il numero di diretta, non parlate con in diretta, ma lasciate un messaggio di segreteria. Io essere bambini, chiamate e parlate. Che ansia però che mi è venuto. Mamma mia. Sono andato bene. È finita questa puntata. sì. Meno male. Ma no, meno male. Allora, mandate i vostri messaggi in segreteria telefonica. K. Devo dire i numeri. Vai. 02 4652 4495. Risponderà il bambino Alberto. Però attenzione, una registrazione, non fate dei dialoghi con lui, perché non vi risponde così, non è che segue il dialogo. Lui vi dice solo: lasciate un messaggio. Di cosa stai parlando? Della nostra segreteria telefonica. Tu così dal niente.